Come da porta picchita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Papà l'americano.